America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, il giorno dopo la sua elezione, Barack Obama, dopo il trionfo della grande notte elettorale, si è svegliato, diciamo, con una sorpresa non certamente positiva, forse non quello che si sarebbe aspettato dopo aver vinto la Casa Bianca per il 2012-2016. La reazione della borsa alla conferma di Barack Obama per altri 4 anni alla Casa Bianca è stata negativa. L'indice Dow Jones ha perso il 2,36%, ben 312 punti, è sceso sotto la soglia psicologica di quota 13.000, quota 12.932,73. Lo stesso è successo per il Nasdaq, meno 2,48%, meno 74 punti, a quota 2.937, di nuovo sotto la soglia psicologica di quota 3.000. L'S&P 500, meno 2,37, ha perso 33 punti, a quota 1.394. Questa perdita generalizzata ha un significato molto preciso. Ratings agency Moody's is set to downgrade the US's AAA rating. It's interesting, we haven't talked about this for a while. That is the prediction if Congress fails to reach another deal on how to handle the nation's debt. Tutto è cominciato con un paio di notizie in arrivo da agenzie per la valutazione del credito. Fitch ha detto: se Obama non risolve il problema del fiscal cliff, cioè dei meccanismi automatici per risolvere il problema del bilancio, la tripla A americana è a rischio. Lo stesso ha detto Moody's: il deficit degli Stati Uniti è insostenibile, la salute fiscale di Washington resta nel mirino della nostra agenzia, la minaccia è quella di un downgrade, l'outlook è negativo. Dunque ci sono stati in effetti questi interventi delle agenzie per la valutazione del credito, ma secondo me non sono stati la vera ragione di questa inversione di tendenza. La borsa, lo sappiamo, era per Mitt Romney, non era per Barack Obama. Il mondo imprenditoriale, lo abbiamo ripetuto mille volte, sperava che Mitt Romney potesse andare alla Casa Bianca per cambiare tutta una serie di cose, dalle regole che strangolano secondo le aziende il business, all'offerta di garanzie per tenere sotto controllo gli aumenti delle tasse. Così non è stato, e questo sicuramente ha contribuito a una reazione negativa degli investitori, ma secondo me ce n'è un'altra e dobbiamo trovarla nel discorso straordinario, appassionato del presidente Barack Obama dell'altra sera. We are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people. Ecco, l'avete sentito, il presidente l'altra sera con questo discorso straordinariamente appassionato ha ritrovato la grinta del 2008, ha parlato agli americani col cuore in mano, ma è proprio su questo che vorrei soffermarmi, perché c'è la facciata e c'è la sostanza, e secondo me torna a questo che ieri, il giorno dopo la vittoria di Obama per la Casa Bianca del 2012, si dibatte in America. L'oggetto è proprio questo straordinario, appassionato discorso del presidente. While our journey has been long, we have picked ourselves up, we have fought our way back, and we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Parole ispirate, parole liriche, nel ritmo, nella scelta, ma è questo il problema, perché in molti ieri, e non soltanto in campo repubblicano, non soltanto nel mondo degli affari, ma anche fra cittadini comuni che magari hanno votato per il candidato democratico, ecco, molti si chiedevano quale sostanza ci fosse dietro questa retorica brillante, perché la facciata alla fine offre la stessa retorica con cui Barack Obama aveva promesso di cambiare l'America nel 2008 per poi deludere. Ecco, questo aspetto è un aspetto chiave. Io non credo che ci sia soltanto una ripetizione della retorica del 2008 senza la sostanza, perché Barack Obama ha parlato di umiltà, ha parlato di aprire nei confronti degli avversari e devo dire c'era un tono diverso nel suo discorso di ieri, la stessa passione, lo stesso timbro entusiasta, il recupero di quell'energia che credo uno la possa recuperare solo quando le cose vanno straordinariamente bene, come è successo a lui con la vittoria alle presidenziali. E dunque io preferirei soffermarmi più che sull'aspetto facciata di questa sua retorica, sull'aspetto che secondo me è più concreto. Sentiamolo ancora. In the weeks ahead I also look forward to sitting down with Governor Romney to talk about where we can work together to move this country forward. Nelle settimane a venire confido di sedermi insieme a Romney per trovare i punti in comune su cui possiamo lavorare insieme per far avanzare il paese. Ecco, questa è la frase importante, perché Barack Obama ha aperto ai repubblicani, aprendo direttamente a Romney, e ha, come dire, porto un ramoscello d'ulivo. Sentite John Boehner, il presidente della Camera repubblicana, una delle sue controparti nel negoziato difficile per risolvere il problema del disavanzo già nel 2011. We're willing to accept new revenue under the right conditions. What matters is where the increased revenue comes from and what type of reform comes with it. Siamo disponibili ad accettare un aumento delle entrate fiscali, ma alle giuste condizioni. Bisogna vedere intanto da dove arriva questo aumento delle entrate e poi che tipo di riforme lo accompagnano, soprattutto dal punto di vista della riduzione delle spese sociali. Ecco, Boehner di fatto ha aperto la porta all'aumento delle tasse, che è la cosa a cui Barack Obama tiene di più, l'aumento delle tasse per i più ricchi, coloro che hanno un reddito al di sopra dei 200 o 250 mila dollari all'anno, a seconda che siano single o che siano una coppia sposata. E subito dopo c'è stato un intervento anche del Senato. Sentiamo Harry Reid, il democratico. I think that the rules have been abused. Credo che in passato si sia abusato delle regole, lavoreremo perché questo cambi. Non elimineremo l'ostruzionismo, ma renderemo il Senato un luogo costruttivo. Ecco, in qualche modo qui Reid apre ai repubblicani alla Camera, dice: ma cerchiamo di lavorare insieme. Voi passate il progetto del presidente Obama, noi accoglieremo alcune delle vostre cose, eliminiamo questa politica del muro contro muro, questo atteggiamento rissoso che ci ha bloccato per 2 anni e guardiamo in avanti, guardiamo al futuro, che è poi il messaggio che ha cercato di dare il presidente americano nel suo discorso subito dopo la vittoria elettorale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Subito dopo la notizia della rielezione di Barack Obama, su Twitter si sono scatenati i commenti dei suoi sostenitori, tra questi musicisti come Jennifer Lopez o come Mariah Carey, che ha scritto: discorso eccezionale, siamo tutti commossi, grazie America per aver dato a Barack Obama altri 4 anni. E dunque a lei, a Mariah Carey, dedichiamo una canzone appropriata per l'occasione. Triumphant. Got him. I swear this word to my father, and the only way to make it to the top if you go and get it from the bottom. And I ain't never asked for no handouts, you won't carry me no Mariah. These haters love when I was dead broke, but they mad at me, I'm on fire and I'm gonna burn, and they ain't gonna learn. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.